140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi di spettacoli questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag cancelletto 140 caratteri. E come sempre potete mandarci ogni volta in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Hotel Miramare, Sanremo. È arrivata al festival dopo molte polemiche per una canzone già postata sul web, ma ci è arrivata e si è fatta conoscere. Chiara Civello. Guarda, adesso ti posso dire col senno di poi che se questo ti fa arrivare così forte, se questa sofferenza vuol dire arrivare bello temprato, più forte, più resistente, ben venga. Ma tu come hai vissuto tutto quello che è successo prima? Molto male, come c'era da aspettarselo, mi ha tolto molta energia questa cosa, soprattutto immaginati tu che fai tanti anni un lavoro in cui credi, che giri il mondo, canti le tue canzoni, decidi di accogliere un'occasione meravigliosa come quella di partecipare al Festival di Sanremo, da cui sono uscite le canzoni più belle che abbiamo nella nostra storia. E nel momento in cui ti annunciano hai questa gioia che arriva alle stelle, ma non ci arriva perché c'è una notizia che dilaga su internet di un problema che ti potrebbe causare la non ammissione. È stato, diciamo, un'interruzione violenta a qualcosa che naturalmente poteva portarmi alle stelle dalla felicità. Ma adesso ci sto arrivando. Ed era come te l'aspettavi, Sanremo? È più di quello che mi aspettassi, perché ho toccato un altro colore della mia emozione. Avendo fatto tante cose diverse nella vita, mi sono sempre calibrata sulle novità che l'emozione legata a un momento mi portava, no? Quindi facevo un'esperienza nuova e mi ricalibravo, quindi mi tempravo un po' di più e mi preparavo a qualcos'altro. L'emozione del palco Ariston è un'emozione che supera ogni aspettativa, nel senso che la prima sera ero veramente molto emozionata. Non dico che tremori di gambe o cose così, però insomma, molto emozionata, forse mi rendevo conto di far parte di una cosa molto importante. Beh, è strano perché dopo tutto tu hai calcato palcoscenici, insomma, di tutte. Sì, ma il palco di Sanremo comunque per me rappresenta molto di più, nel senso che è come se fosse un ritorno a casa veramente ufficiale ed è la prima volta che incontro il grande pubblico italiano e quindi è una cosa carica di importanza per me. Raccontata nel modo giusto al pubblico che ti conosceva poco? Guarda, la frase che Tony Bennett ha detto l'ha detta un bel po' di tempo fa, quando io cantavo soprattutto jazz, quindi chi si aspettava che avrei cantato una canzone di jazz, ma forse può essere stato un po' spiazzato, no? Però in realtà non è stato detto adesso arriva e canta jazz, è stato detto qualcosa di bello, riferito a me, un elogio anche che mi crea un certo senso di responsabilità, perché è un elogio molto bello. Ma si riferisce all'epoca in cui, prima che incidessi il mio primo disco nel 2005 per la Verve, cantavo molti standard di jazz, quindi lui si riferiva a quella parte della mia vita in cui ero più un interprete che un'autrice. E io credo che non c'è bisogno di farsi raccontare, ci si racconta da soli in queste 5 serate. Cantare in italiano? Fantastico, lo faccio da anni in realtà. La prima canzone che ho scritto, che è stata poi la canzone che mi ha fatto incontrare il produttore Russ Titelman, che ha prodotto il mio primo disco nel 2005, era una canzone in italiano. Poi dopo sono stata, diciamo, più portata a scrivere in inglese perché vivevo negli Stati Uniti, perché partivo da lì, diciamo. Ma adesso tutto italiano, benissimo, qualche chicca in inglese, perché no? Poi nello spettacolo ci sono più canzoni in inglese. Come vedi adesso la tua strada? Sempre in crescita, con tante salite. Spero, confido in qualche pianura ogni tanto. Non discese mai, pianura. Teatro Manzoni, Milano. Milano, una delle tappe della tournée di Cercasi Tenore, uno spettacolo importante di cui va molto fiero il protagonista, Gianfranco Iannuzzo. È importante perché è un segnale di fiducia da parte di chi lo spettacolo lo produce, lo dirige, che è Zanetti, e da parte di tutti noi che siamo felici di poter credere in una cosa importante in un momento in cui invece la nostra... le paure che abbiamo anche dal punto di vista economico, molto volgarmente detto, cioè, i soldini acquisiscono una valenza maggiore, forse da un certo punto di vista non tutti i mali vengono per nuocere, perché cominciamo a dare davvero valore al denaro. Puntare un po' testardamente, tenacemente sulla qualità vuol dire credere nelle cose fatte bene, e forse può diventare la linea di demarcazione, il discernimento fra una cosa piuttosto che scegliere una cosa così tanto per. La gente è un po' stanca, stufa di ridere, sì certo ride, una risata grassa per la parolaccia, per la caratterizzazione spinta, per la volgarità, per il doppio senso, però poi non ti lascia nulla alla fine, questo lo dico al di là, io non sono mica bacchettone, siamo gente di mondo, abituati a qualunque cosa, non ci scandalizziamo più di nulla, però affrontare un pubblico con le parolacce, tanto per fare così, non credo che paghi alla fine. Quindi che cosa vuoi da me? Avanti, sparire. Come ti sembro? Ridicola! Non capisco che problemi hai. Ma guardati, Maggie, guardati! Sembri una ragazzina svampita che perde la testa per il vivo di turno. Quel tuo morello, vedi? Non è ancora arrivato. Guarda cosa stai facendo allo specchio, guardati. Oddio, come sto... No, soffoco, non respiro. Voglio vederlo. Tutto qua. Voglio il suo autografo. Il suo autografo. Piuttosto che voi rimanere da sola con lui per cercare di sedurlo. Nella presentazione dello spettacolo c'è scritto che lei è dotato dell'ironia dei siciliani. È così? Chi ha scritto le note di questo spettacolo è molto generoso con me. Io però questa è una cosa alla quale sono legato, nel senso che siccome sono sempre stato molto orgoglioso di essere siciliano e ritengo un po' presuntuosamente che le qualità, ammesso che io ne abbia qualcuno, comunque derivano dalla mia sicilianità, perché sto pensando poi in realtà, forse ripeto un po' presuntuosamente, che le qualità, quelle vere e belle dei siciliani, sono il senso della lealtà, dell'amicizia, il culto della donna. La donna come madre, come terra, come appartenenza, come generatrice di vita. Questi sono i valori in cui tutti i siciliani, senza saperlo, finiscono per credere profondamente. Quindi un grande rispetto per le cose belle. Siamo circondati dalla bellezza, bellezza meravigliosa della natura, con le sue contraddizioni. La Sicilia è bella per le sue contraddizioni. Stigmatizziamo sempre mafia, non mafia, ma se non ci fosse stato questo contrasto fra il bene e il male, non ci sarebbe stato la coscienza di essere un popolo, e popolo lo dico con la P maiuscola, straordinario, perché tutti volevano venirci a conquistare e nessuno ha conquistato un bel niente. Abbiamo preso il meglio da tutti, rimanendo assolutamente con una fortissima identità di siciliani. Quindi, come vede, l'argomento mi appassiona molto, quindi lo prendo come un bel complimento, grazie. Mentre che io cantavo la romanza, sì, nel grande teatro, quella romanza dell'amore, la romanza de passion, quella con Desdemona, in quel momento di grande passion, di sentimento, io realmente pensavo a te, dopo dell'eterna ira, ecco che arriva il momento dell'eterno amore. Voglio concepire i tuoi figli! Come faremo con tua moglie? Mia moglie? Sì. Quale? Mia moglie! Sì. Lei si sente il punto di riferimento di questa compagnia? Gli attori glielo stanno tributando? Gli attori me lo tributano perché sono tutti generosi, hanno, come dire, mi vogliono riconoscere e ne sono contento. Forse ho più esperienza di loro, nel senso che siccome sono ormai quasi 30 anni che non perdo una stagione teatrale, ho finito quasi senza accorgermene per accumulare una grande esperienza, che credo di trasmettere in qualche modo, l'entusiasmo trasmetto, ma che i miei compagni di lavoro mi vogliano riconoscere questa generosità in scena, e con loro ne sono felice naturalmente. Non lo sapevo, è stata una bella sorpresa anche per me. L'attore è il precario per eccellenza. Da giovane hai un entusiasmo che speri sempre che non ti abbandoni quando sei più grande. E quell'entusiasmo, almeno per quello che riguarda il mio lavoro, non mi ha abbandonato e spero che non mi abbandoni mai. Ma avevo dei sogni e potevo realizzarli, avevo un'idea di poterli realizzare perché potevo contare sul mio lavoro, su una famiglia che mi proteggeva. Io invito i giovani a non lasciarsi prendere da questi falsi miti, soprattutto nel nostro mondo dello spettacolo, che, come lei dice bene, è quanto di più aleatorio e precario si possa immaginare e intraprendere. Tutti pensano al successo. Il successo è una parola brutta, secondo me. Brutta, orrenda, pericolosa. Il successo è avere la curiosità di migliorare se stessi, di conoscere anche gli altri. Dagli altri, dal confronto, impariamo tante cose. Perché questo è il ritorno sui siciliani. Siciliani abbiamo conosciuto tanta gente. Caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Il cinema nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Cinema Apollo, Milano. Un regista italiano, il suo primo film americano, tratto dal romanzo di Peter Cameron, Un giorno questo dolore ti sarà utile. Roberto Faenza. Dunque, intanto mi ha affascinato leggere un libro che mi ha ricordato un mio sogno giovanile del giovane Holden che avrei voluto portare sullo schermo e che non ho potuto perché Salinger non ha mai voluto cedere i diritti a nessuno. Quindi questo l'ho trovato quasi una storia simile, mi ha molto intrigato, mi sono precipitato a comprarne i diritti. Poi mi ha colpito l'attualità di questo racconto, cioè vedere un adolescente che rifiuta in toto il mondo degli adulti, che è un mondo peraltro in totale dissoluzione. Noi lo vediamo anche proprio in queste ore, il mondo che abbiamo costruito non sta in piedi, non è un problema di banche, di denaro, non sta in piedi proprio i valori, quello che vogliamo ottenere, il profitto, la corruzione, è un qualcosa che sta dilagando nel mondo e che sta crollando. James è una specie di antesignano degli indignati, perché è indignato verso questo mondo che è rappresentato dai grandi e i quali non lo capiscono, anzi pensano addirittura che siano un disadattato, uno psicopatico, uno da curare, al punto che a un certo punto lui stesso pensa di esserlo, si vede così diverso che dice: oddio, ma non sarò io che sbaglio. E poi, per fortuna, nel percorso di questo racconto, dopo alcuni incontri per lui molto importanti, si rende conto che non è lui che sbaglia, ma sono gli altri che sbagliano. E secondo me questo è un racconto molto attuale, che noi ci troviamo tutti i giorni a fronteggiare e con cui dobbiamo fare i conti. Se fosse sempre breakfast sarei felice. Ancora sintonizzato sui miei sogni, impreparato a tuffarmi nella realtà. La tua vita è un gioco, James. No, ho un padre che sta per fare un intervento estetico. Una madre il cui matrimonio è durato appena un weekend. Una sorella che scrive le sue memorie all'età di 23 anni. Come si scrive facsimile? Non c'è la X? No. Allora perché fax ha la X? Perché il mondo è crudele e assurdo. E vorresti mandare me da una stretta cervelli? Per favore, possiamo fare una pausa? Certo. Quindi mi stavi dicendo che tutti ti dicono che non sembri un ragazzo normale. Vuoi ballare? No. Ad alcune piacciono i solitari. Il rapporto con Cameron è stato molto buono, perché Cameron ha fatto le prime sceneggiature con me, poi quando si è reso conto che non è il suo mestiere mi ha detto: guarda, ci sono persone più brave di me a fare i dialoghi, soprattutto oggi che i giovani parlano la lingua inglese, è una lingua in trasformazione continua. In un anno tu trovi parole che non esistevano l'anno prima. Allora abbiamo scritturato questa giovane scrittrice, Dalia Eiman, che è molto dentro il linguaggio newyorkese, e abbiamo fatto una nuova sceneggiatura. E Cameron ha detto: guarda, è meglio così, perché io non faccio cinema e quindi voi seguite la vostra strada. Ed è stato molto intelligente, perché mi ha liberato anche da un rispetto che magari avrei dovuto portargli se avesse continuato a scrivere anche lui. Invece l'avventura della coproduzione com'è stata? Ah, questa è la domanda che andrebbe fatta ai miei coproduttori. Comunque direi molto buona, nel senso che oggi in America ci sono un sacco di possibilità per le nostre... Noi, per esempio, una cosa bellissima è che se tu giri un film a New York, tutto quello che spendi lì ti ridanno indietro il 35%, mentre qui, per avere un piccolo tax credit, ci sono lotte di governo, li ottieni anni dopo. Il giorno che siamo usciti da New York c'era un assegno pronto per i soldi che ci venivano restituiti. È una cosa eccezionale. Infatti io trovo che è vergognoso che i nostri politici, anziché preoccuparsi di espandere il potenziale del nostro cinema, di fare per esempio dei trattati con l'America, si occupino di piccole beghe, di cose veramente insulse, quando esiste un potenziale per il cinema italiano fuori dall'Italia, e anche per il cinema straniero in Italia, che andrebbe assolutamente esplorato e cercato di rendere più facile anziché così difficile. Le difficoltà sono di due tipi: la città molto protetta. Dopo l'11 settembre, per esempio, le scene che io ho fatto nel parco, c'erano circa 100 poliziotti alle nostre spalle per lasciarci girare, quindi non hai idea dei permessi, le discussioni. Io dovevo discutere il giorno prima dove mettevo la cinepresa addirittura, e quindi questo è molto difficile. Però poi c'è anche il fatto che c'è un'efficienza, una capacità organizzativa nelle truppe americane che noi ce lo sogniamo, soprattutto questa grande disponibilità a lavorare finché una scena non è finita. Cioè non esiste come da noi la golden hour, che dopo 10 ore te ne puoi fare solo due, dopodiché devi andare a casa. Se hai bisogno, perché una certa scena richiede 18 ore, lavori 18 ore. Ecco, secondo me questo è un mondo libero al cui io vorrei che anche in Italia si potesse arrivare, invece di avere delle costrizioni e delle burocrazie che rendono soltanto più difficile il nostro lavoro. Che cos'è questa storia che non vuoi più andare all'università? Non c'è motivo di studiare delle cose che non mi interessano per niente e finirei col dimenticare subito. Ma ho 30 anni. Mi sono laureato a Stanford e ho una specializzazione alla Sorbona. Ho chattato con te stamattina. Esattamente. Ti è andato a puttane il cervello, James. Le passioni vanno coltivate. Tesoro, devi cercare di ottenere le cose che vuoi. Ma io sono, a differenza della maggior parte degli italiani, ottimistissimo. Perché penso che ormai qui l'Italia non esiste quasi più, tra pochi giorni assisteremo alla sua decomposizione, poche settimane, e quindi saremo, secondo me, come nel dopoguerra, saremo costretti a rimboccarci le mani e ricostruire tutto, il che è una bella cosa. Cioè è così brutto quello che abbiamo alle spalle che si può solo ricostruire in meglio. Io sono molto molto ottimista e penso che questo film sia un po' in quella strada. Non tutti i giovani sono come noi pensiamo che siano i giovani. Io vivo con un rapporto quotidiano con i giovani, perché insegno all'università, e vedo veramente dei ragazzi in gambissima, intelligentissimi, preparatissimi, che purtroppo non hanno dietro niente, cioè non hanno le famiglie, non hanno una dimensione di futuro, non credono in questa classe politica deteriore. Ma c'è, guarda, credimi, tantissimi sono come James, molto ma molto di più di quelli che noi non immaginiamo. Se vuoi venire un giorno alla città, te ne faccio conoscere 200-300 e sarai stupita. Ed è tutto per il nostro appuntamento settimanale in onda con 140 caratteri. Continuate a seguirci tutti i giorni attraverso Twitter con il mio account @MartaCagnola oppure con l'hashtag cancelletto 140 caratteri. Per il momento a tutti l'augurio di una buona domenica.